GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Faccia a faccia in corso a Trieste fra sindacati ed MSC sulla ripresa della produzione nello stabilimento Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra, trattativa in salita su diverse voci che compongono la busta paga dei lavoratori. Il mondo della siderurgia ha fame di energia per i propri impianti e anche a Buttrio, al vertice mondiale organizzato da Danieli, si è imposto il tema del ricorso al nucleare, ma il Friuli Venezia Giulia procede anche sul progetto della dell'idrogeno. Il superbonus 110% va in pensione, ma resta in piedi una giungla di altri bonus e di agevolazioni edilizie in cui è complicato muoversi, ma tutti sono in fase di riduzione. Per questo le aziende del settore si aspettano un'improvvisa corsa alla ristrutturazione della casa. Il caso di febbre dengue accertato a Trieste, in mattinata in Asugi si è svolto un vertice, la situazione non presenta motivi di allarme, si tratta di un unico episodio e la ragazzina di 13 anni infettata è in isolamento al maggiore e sta già meglio. Cieli sereni a tutti è l'augurio risuonato a Trieste alla premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso Viva Marga, iniziativa che ricorda la figura di Marguerite Hack, coinvolti 700 ragazzi e 40 docenti di 21 scuole di Trieste, Firenze e anche dall'estero. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Francesca Terranova e Antonio Cagliazza. Il dopo Wärtsilä sta per cominciare, il confronto fra la MSC di Gianluigi Aponte e i sindacati entra nella fase cruciale. Un vertice è in corso nella sede di Assindustria a Trieste. Sul tavolo una questione non da poco, il mantenimento dell'integrativo salariale riconosciuto da Wärtsilä. È tutta in salita la trattativa tra i sindacati e MSC. Anche senza un accordo di programma firmato tra il colosso del mare e Wärtsilä, proseguono gli incontri tra le parti sociali e gli emissari Gianluigi Aponte. MSC si è detta più volte favorevole all'ipotesi di assorbire tutti i dipendenti in esubero dallo stabilimento dei finlandesi a Bagnoli della Rosandra, anche se in realtà non esiste ancora un numero preciso dopo le diverse uscite volontarie che hanno coinvolto i lavoratori negli ultimi due anni. Oggetto della discussione della riunione di oggi però sono i livelli salariali. Contratto nazionale e anzianità non sono messi in discussione, ma in busta paga i dipendenti di Wärtsilä hanno diverse voci di integrativi aziendali e premi di produzione contrattati nel corso di decenni che incidono anche significativamente sullo stipendio mensile e su cui MSC è poco disposta a riconoscere, almeno all'inizio. La multinazionale infatti sa che serviranno anni, almeno tre, per entrare a pieno regime per la produzione di carri merci ferroviari e non vorrebbe quindi accollarsi costi superiori a quelli dei contratti nazionali. Dall'altro lato i lavoratori sanno che per la maggior parte di loro ci saranno ammortizzatori sociali per un periodo di tempo non breve e vogliono quindi evitare di perdere soldi in una busta paga che sarà giocoforza decurtata almeno per un periodo. Al tavolo sono presenti anche i vertici nazionali di FIM, FIOM e WILM. Nel pomeriggio gli stessi rappresentanti dei lavoratori incontreranno invece Wärtsilä. Tra le questioni in ballo anche la richiesta di un impegno formale da parte dei finlandesi sul proseguire a investire sull'attività di ricerca e sviluppo e di service anche oltre il 2025. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il futuro della siderurgia potrebbe essere legato a quello dell'energia nucleare. Le acciaierie potrebbero essere addirittura integrate con mini centrali nucleari e così si potrebbe dire addio al carbone. Questo e altri scenari sono in discussione alla Danieli di Buttrio, dove è in corso un meeting internazionale con 700 esperti di siderurgia da 75 nazioni. Il ritorno dell'energia nucleare, tema che rimbalza dalla politica all'imprenditoria. L'ipotesi trova d'accordo non solo Confindustria e gli amministratori regionali. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, si è già espresso favorevolmente, aprendo anche all'ipotesi che siano direttamente i consorzi industriali a farsi la loro centrale. Non più nella forma della centrale tradizionale, quanto piuttosto dei mini reattori modulari. Al quinto Danieli Innovation Meeting, che ha radunato a Buttrio il 60% della siderurgia mondiale, oltre 700 imprenditori, manager ed esperti da 75 nazioni, presente anche un produttore di mini centrali nucleari, Giacomo Mareschi Danieli, amministratore e delegato di Danieli. Sostituire il carbone è molto difficile senza tanta energia, probabilmente le rinnovabili non sono sufficienti tutte insieme, il nucleare è una delle risorse che abbiamo, noi ci crediamo, può essere pulito, l'ultima generazione nucleare è molto pulito, speriamo che nel futuro un'acciaieria possa essere addirittura integrata con una mini centrale nucleare per dargli l'energia che gli serve per decarbonizzare. Il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista del progetto Valle dell'Idrogeno, ma è tecnologia giudicata ancora troppo costosa per il ciclo produttivo dell'acciaio. Giuseppe Pasini, presidente del gruppo Feralpi. L'Italia deve sfruttare di più quello dell'energia solare. Investimenti sugli accumulatori. E naturalmente andare avanti col discorso degli accumulatori. Questo sarà determinante per riuscire anche a eliminare i picchi. Questo è assolutamente determinante. Di autosufficienza, non solo energetica, si è parlato anche in relazione al progetto siderurgico in collaborazione con Metinvest, spostato da San Giorgio di Nogaro a Piombino. Luca Villa, amministratore delegato di Metinvest Adria. È un impianto importantissimo che va a colmare una lacuna importante, perché oggi l'Italia importa più di 5 milioni di tonnellate di colza ogni anno, specialmente in un momento come questo particolare, in cui per le tensioni internazionali c'è la volontà di essere, diciamo, abbastanza autonomi su quelle che sono le produzioni primarie. Butrio, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo della selva delle agevolazioni edilizie. Dal settore si chiede una semplificazione, una razionalizzazione dei tanti bonus ancora esistenti. Ma prima che scattino le riduzioni degli incentivi, è prevedibile una nuova fiammata per le ristrutturazioni. Il superbonus va in pensione, restano diversi bonus edilizi, ma ci sono delle modifiche. Chi deve rifare un bagno o sostituire una caldaia, dal 1 gennaio del 2025 l'agevolazione fiscale passerà dal 50 al 36%, per arrivare al 30% nel 2028, sempre con un tetto di spesa di 48.000 euro. Barbara Puschiasis dell'Associazione Consumatori Attivi. La direttiva Casa Green impone una riqualificazione del patrimonio edilizio, quindi se non si arriverà a definire un bonus, che si auspica sia un bonus unico per evitare una giungla ulteriore di norme e di strumenti, sarà difficile rispettare queste scadenze che ci impone l'Europa. Con la diminuzione degli incentivi si ridurranno anche le possibilità di investimento dei cittadini, e questo preoccupa il settore dei costruttori, che soprattutto grazie al superbonus è tornato a crescere dopo 10 anni di stallo. E ora c'è il rischio della corsa alla ristrutturazione per poter beneficiare del 50% entro la fine dell'anno. Marco Bertuzzo dell'ANCE Friuli Venezia Giulia. È necessario che il governo riveda un attimino tutto quello che è il sistema di bonus, non certo con queste misure così risicate, perché veramente il potere di acquisto dei consumatori è fortemente limitato in considerazione anche dell'aumento dei costi di ristrutturazione che abbiamo visto in questi ultimi anni. Dopo il caos della gestione del superbonus, anche i consumatori auspicano che si lavori su un bonus unico mirato alle fasce di reddito. Ricordiamo come gli interventi superbonus in realtà siano stati realizzati soprattutto a favore dei soggetti che avevano più capienza economica, quindi non ha neanche centrato l'obiettivo originario che si era dato, cioè quello di permettere a tutti di poter effettuare un intervento di riqualificazione. Trieste, Vaciutti, GR Friuli Venezia Giulia. Sta meglio la ragazzina di 13 anni colpita dalla febbre dengue, probabilmente durante una crociera ai Caraibi. È attualmente in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale maggiore di Trieste. Ieri è stata effettuata una disinfestazione in un'area circoscritta della città. Non è emersa una situazione di allarme nel vertice indetto in seguito all'emersione di un caso di febbre da dengue a Trieste. Nella riunione a cui hanno partecipato l'assessore regionale alla salute Riccardi e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie del territorio, è stato infatti considerato che per ora si tratta di un unico episodio immediatamente contrastato dalla disinfestazione svolta nell'area cittadina tra via Catullo e il giardino pubblico per un raggio di 200 metri. E la persona colpita, una 13enne ora ricoverata in isolamento agli infettivi dell'ospedale maggiore, risulta stare già meglio. In ogni caso, tutte le aziende sanitarie risultano dotate di vaccino gratuito per i contagiati e prenotabile per chi torna da vacanze in luoghi tropicali presso gli uffici prevenzione viaggi internazionali. Al momento il Brasile è il paese che conta la maggior parte delle infezioni trasmesse da zanzare che hanno già punto dei contagiati e il centinaio di casi registrati da inizio anno per ora si sono concentrati soprattutto in Veneto, Lombardia e Lazio. Importante evitare il formarsi di focolai da raccolte d'acqua stagnante, così da contrastare la trasmissione di un virus che può manifestarsi anche in forma mortale. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tema della produzione di energia idroelettrica al centro di un'audizione in corso in Consiglio regionale. La materia di competenza regionale e comitati locali e sindaci lamentano una cattiva gestione in materia di sicurezza e di compensazioni per le comunità del territorio. Un atteggiamento da colonizzatori da parte almeno di alcune grandi società concessionarie degli impianti di produzione idroelettrica in regione, con ritardi o omissioni nel corrispondere le compensazioni previste dalla legge e mancate ricadute economiche sul territorio a fronte di profitti che, per effetto degli aumenti del costo dell'energia, si sono moltiplicati. La denuncia arriva dai sindaci dei comuni di Ampezzo, Montreal Valcellina, Cavazza e Verzegnis, oltre che dal comitato Acque Val Meduna, protagonisti della prima parte dell'audizione in quarta commissione del Consiglio regionale richiesta dalla consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra Pellegrino sul tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche in regione, una materia che la regione ha normato 4 anni fa con una propria legge che prevede tra l'altro la fornitura gratuita da parte dei concessionari di forniture di determinati quantitativi di energia elettrica anche mediante la monetizzazione del loro controvalore economico. La legge regionale prevede poi misure di compensazione ambientale e territoriale e impegni per la stabilità del personale impiegato, aspetti sui quali almeno alcuni dei grandi concessionari si sono dimostrati, secondo gli auditi, inadempienti. Altro motivo di scontento, il fatto che Edison e A2A, che a proposito di questa legge hanno aperto un contenzioso con la Regione, siano comunque ammesse a partecipare a gare pubbliche indette dalla Regione stessa. E ancora il problema della sicurezza. Una circolare ministeriale del 2014 prescriveva la redazione di un piano di emergenza dighe, del quale in particolare il sindaco di Ampezzo ha chiesto di conoscere lo stato di attuazione, mentre da più parti è stata rilevata la riduzione di personale al controllo e alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, chiedendo che il numero degli addetti venga adeguato. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Bruno Bari è il nuovo presidente regionale di FIMA, la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari, aderente a Confcommercio. Già membro del Consiglio nel precedente mandato, Bari, presidente provinciale di FIMA Pordenone, prende il posto di Andrea Oliva, che è rimasto alla guida del sindacato per 16 anni. Vicepresidente è stato indicato il presidente provinciale di Udine, Lino Domini. Viva Marga in ricordo di Margherita Hack è il concorso per le scuole promosso in occasione del decennale della scomparsa della grande astrofisica. E stamattina a Trieste c'è stata la premiazione dei migliori elaborati fra i 700 provenienti da 21 scuole. Cieli sereni a tutti e l'augurio risuonato nella sala del Palazzo della Regione a Trieste, dove sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso Viva Marga, iniziativa che ricorda la figura di Margherita Hack, astrofisica fiorentina, che ha vissuto e insegnato a lungo a Trieste. Il progetto ha coinvolto 700 studenti e circa 40 docenti di 21 scuole, di Trieste, appunto, di Firenze, ma anche estere, dove si insegna l'italiano. In tutto sono stati presentati 73 elaborati, che hanno spaziato per creatività e fantasia. Il professor Luca Iannes dell'Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste. Noi abbiamo fatto un elaborato che è un percorso multimediale in cui è possibile percorrere gli anni salienti della vita di Margherita Hack. La professoressa Elsa Daniela Bargelli dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo. Un libro, Viva Marga, la donna delle stelle, interamente fatto a mano. Quindi ci sono disegni, ci sono i testi ed è tutto fatto a mano. Questo è stato il nostro lavoro. E c'è anche chi ha fatto un murales. La professoressa Amela Beccia del primo ginnasio di Sarajevo. Il murale rappresenta Margherita Hack che va in bicicletta su un telescopio. La signora delle stelle, così era chiamata Margherita Hack, con la sua passione per la scienza, ma anche per la libertà e l'affermazione dei diritti, è diventata modello e fonte di ispirazione per i giovani, anche per avvicinarli alle discipline scientifiche. La studentessa Nada Litovic del primo ginnasio di Sarajevo. So, I think Questo progetto è stata una grande opportunità per tutti di scoprire la figura di Margherita Hack e sono contenta di averla potuta conoscere anche io. La studentessa Giusy Favotti dell'Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste. Beh, ho imparato che è stata una donna molto importante, che grazie a lei ha aperto la strada anche a molte altre donne e che hanno trovato il coraggio a esprimersi, e ho imparato anche molto di più sulle stelle, sulle varie cose che lei ha studiato. La studentessa Martina Carpini dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo. Abbiamo capito che nonostante fosse una donna come tutte le altre, che non avesse, come ha detto appunto Marga, non avesse fatto chissà che, tutti l'adoravano appunto per la persona che era. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E anche grazie ai ricercatori della nostra regione che si stanno facendo importanti passi avanti in materia di trapianto di fegato, soprattutto per prevenire il rigetto dell'organo trapiantato, ancora un'eventualità molto frequente. Pubblicato infatti uno studio su Annals of Hepatology, scritto da un team di ricercatori italiani della Fondazione Fegato Onlus, centro trapianti di fegato dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale e area Science Park. Dallo studio emerge che sono le variazioni nella trascrizione del DNA in RNA messaggero a contribuire al danno iniziale del fegato trapiantato. Il progetto prevede dunque di raccogliere biopsie e campioni di sangue dai pazienti trapiantati per poi avviare una terapia genica personalizzata e antirigetto. L'idea è di raccogliere queste informazioni da tutti i pazienti per creare una banca dati che usi anche l'intelligenza artificiale per trovare di volta in volta la terapia più adeguata al singolo paziente. Ed ora vediamo qual è la situazione meteorologica. Il cielo è variabile sulla costa, coperto in pianura e in montagna. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 21 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 22 gradi. A Gorizia 23, a Udine 22, a Pordenone 20. Tarvisio 16 gradi, Tolmezzo 15,5, Forni di Sopra e Piancavallo 11 gradi, Sappada 9 gradi e mezzo. Sull'Ussari 9 gradi, sullo Zoncolan 8,5, a Lignano e a Grado 21, la temperatura del mare nelle due località è di 22 gradi. Le previsioni: oggi pomeriggio il cielo in prevalenza nuvoloso con piogge e rovesci sparsi. Domani miglioramento con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile con possibili rovesci sparsi nel pomeriggio sui monti. Manca ancora tempo all'autunno e precisamente alla seconda domenica di ottobre, quando il Golfo di Trieste si riempirà delle vele della Barcolana, ma il vento sta già soffiando sull'organizzazione della 56esima edizione. E stamattina c'è stata la presentazione. Sentiamo l'intervista al presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Jaluz. La Barcolana caratterizzata da energie positive, viviamo una situazione difficile dal punto di vista internazionale, Barcolana vuole lanciare un messaggio, dobbiamo nonostante tutto mantenere l'ottimismo e navigare assieme con lo spirito di inclusione, della sostenibilità ambientale, con grande creatività e con grande gioia. C'è qualche novità rispetto al passato? Quest'anno la novità più importante è che sarà coinvolto tutto il Friuli Venezia Giulia, partiremo a Lignano, poi Grado, Monfalcone e Muggia, quindi tutto il litorale del Friuli Venezia Giulia sarà coinvolto dalla Barcolana 56, una Barcolana che si allarga a tutta la regione per portare sempre più persone, sempre più appassionati a Trieste la seconda domenica di ottobre. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il borgo di Coltura, frazione di Polcenigo, è stato oggetto di riqualificazione urbanistica. Lavori ispirati ai dipinti del maestro dell'Ottocento Luigi Nono. Alcune delle opere sono esposte al pubblico fino al 30 giugno nella Canonica e nel Chiostro di San Giacomo. Sono le opere pittoriche del maestro dell'Ottocento Luigi Nono ad avere ispirato i lavori di recupero urbanistico del borgo di Coltura, frazione di Polcenigo. Quattro maschere ricostruiscono il volto del pittore e attraverso un QR code diventano strumenti per la visione dei quadri. Alcune delle opere che hanno ispirato il progetto di riqualificazione voluto dal comune sono esposte al pubblico fino al 30 giugno nella Canonica e nel Chiostro di San Giacomo e allestita una selezione di quadri che raffigurano Polcenigo e la Pedemontana. Nella chiesa di San Lorenzo si trova invece una riproduzione della celebre opera Il funerale di un bambino. Giovanni Granzotto è curatore delle mostre. Luigi Nono è stato un pittore che ha amato in maniera incredibile questi luoghi, i luoghi attorno a Polcinigo, e molta parte dei suoi capolavori sono proprio ambientati fra cultura e Polcinigo. Bene, il comune di Polcinigo ha voluto ripristinare una buona parte di questi luoghi magici proprio seguendo la storia dell'arte, cioè seguendo i dipinti di Luigi Nono. Al piano superiore della canonica, inoltre, è visitabile una mostra di ritratti e paesaggi della pronipote Serena Nono. Ha una caratteristica comune a quella del bisnonno, cioè quella di inserire nei luoghi, nei paesaggi, negli ambienti, una energia vitale che è tipica delle persone, che le immagini quindi parlano di un sentimento dei luoghi, ma anche di un sentimento delle persone. Polcinigo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. I docenti di musica jazz del Conservatorio di Trieste si esibiscono in concerto questa sera alle 20.30 nella Sala Tartini. Si alterneranno Simona De Rosa, la voce, Nicola Fazzini, sax contralto, Mirko Rubegni, tromba e corno, Riccardo Chiarion, chitarra elettrica, Giorgio Pacorig, pianoforte, Giovanni Maier al contrabbasso e Roberto Dani alla batteria. In programma brani da loro stessi composti e arrangiati. Il programma regionale in friulano, previsto nel pomeriggio, andrà oggi in onda alle 16 per lasciar posto alle 15.15 all'informazione elettorale in vista delle europee dell'8 e del 9 giugno. Sono ora le 12.51 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata assicurata da Riccardo Stoic e da Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Francesca Terranova e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.